Kellogg. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Ciao Spendacciola 2013, tu mi poni una domanda per un consulto sui tarocchi e mi chiedi: ho amato una persona, ci siamo lasciati, adesso questa persona sta con un'altra. Posso sapere come va la loro storia e se si lasceranno? Sebbene i due caratteri delle due persone possano essere anche non perfettamente compatibili, ok, il carro a volte può indicare due strade che si separano, la dualità anche può indicare, quindi sebbene la carta mi trasmette questo, i due caratteri di queste due persone possono in alcuni momenti non essere compatibili, la loro unione... Io non volevo crederci, poi mi sono confortato con qualche velocissima consultazione nel giro delle mie conoscenze. È proprio vero. È uscito un inserto su R2 di Repubblica, due paginone dedicate al mercato dell'occulto in Italia. È un argomento abbastanza trito, vecchio, se ne parla tanto. Ma la cosa che mi sorprende è che oggi, in un momento in cui dovremmo vivere all'insegna dell'austerità, in cui le borse si sono strette, in cui i consumi vengono radicalmente ridimensionati, in cui tutto il superfluo viene comunque ripensato, riconsiderato, beh, gli italiani spendono come non mai in ciarlatani, truffatori, maghi, indovini. Beh, voi avete questa percezione? Io sì. Ho cominciato a sentire un po' di amici, amiche soprattutto, avvocatesse, professionisti, come tu ci vai dal chiromante, all'inizio dicono di no, si vergognano, poi c'è sempre un'amica che è così brava a fare i tarocchi, c'è sempre una persona che in realtà sì, ci prende proprio, dice guarda, io non ci credo, ma ci prende proprio, dice proprio delle cose della mia vita che non le ho detto, come fa a saperle, non immaginando che in realtà la vera arte del chiromante truffatore è proprio quello, di farti dire attraverso impercettibili segni cose che lui poi ti trasmette come se fosse naturalmente frutto della sua capacità di investigare nella zona oscura che è stata realtà sensibile e realtà inimmaginabile. Questo è anche un bel giretto di soldi, perché pensate che nel 2013 160.000 sono gli operatori che si muovono in questo settore e gli italiani che si sono rivolti a maghi, chiromanti, indovini, cartomanti sono 13 milioni di italiani che vanno ancora dal chiromante, ancora pensano che uno guardando le carte ti risolve dei problemi. Poi andando avanti, visto che i dati che fornisce Repubblica sono delle stime del Codacons, guardate, nel 2010 erano 10 milioni, sono diventati 13 milioni, quindi 3 milioni più, un milione di italiani in più all'anno va dal cartomante, ma girano anche abbastanza soldini, nel 2013 sono 8,3 miliardi che vengono buttati nelle mani delle persone che fanno i cartomanti, il più 18,5% rispetto all'anno prima. Beh, voi pensate che è un mercato immenso, qua si parla di 30.000 consulenze a pagamento al giorno, gente che non c'ha né arte né parte, non ha fatto mai niente nella vita, non ha mai studiato nulla se non buttare lì, inventarsi, improvvisare o magari anche leggiucchiare qualche libro per saper dire esattamente come appunto gli astri, le stelle, le anime degli mortacci nostri, non so, qualcosa che comunque ci determina quello che noi in realtà non sappiamo individuare. Ma voi ci credete? Voi vi affidate al cartomante, al chiromante? Anche voi avete quell'amica tanto brava che comunque ci prende? Io non ci voglio credere, però ci prende, sembra impossibile ma ci prende. Beh, fatemelo sapere, 800 24 0024. Sono qui con il mio primo tutorial dedicato ai tarocchi che permettono la lettura del passato, del presente e del futuro. Carta numero 3, l'imperatrice. L'imperatrice è colei che dà vita a tutte le cose, porta al progresso femminile, porta alla fecondità, alla maternità, alla paternità, porta al matrimonio. Indica capacità artistiche assai spiccate, anche un bellissimo e brillantissimo inizio di carriera, una promozione. Se questa carta arriva al contrario, porta l'infedeltà, la perdita di beni materiali e la vanità. Carta numero 4, l'imperatore. Ma può essere che adesso poi, diciamo, l'ampliarsi delle tecnologie per comunicare, per integrare le persone, per socializzare attraverso dei network, hanno amplificato questo fenomeno. Ci sono delle applicazioni a tonnellate che la gente si scarica per poter vedere l'oroscopo del giorno, per poter capire come può assemblarsi sentimentalmente con le persone. Guardate, anche per ragazzini, io vedo la reclame molte volte in televisione di piccole applicazioni che tu mandi un sms, scrivi Fabrizio Intonti e lui ti risponde no, con questo potrai sposarti, oppure direi con questo no, non devi metterti insieme. Ma pensate, probabilmente è un software di base, un'applicazione ridicola che attraverso un algoritmo assembla una serie di risposte a caso. Eppure molte persone affidano la loro scelta di vita, la loro scelta sentimentale, una scelta importante alla loro giornata, a un cialtrone che a loro guarda le carte e gli dice come devono fare. E molte persone poi entrano in stati di crisi profonde, in angosce. Se la cartomante ti dice che è la persona che magari ci stai felicemente assieme, guarda che quest'uomo o questa donna in realtà un'altra persona ti tradisce, oppure l'uomo che ti tradirà, oppure dirà questa è la donna che ti rovinerà, ma questi mettono seriamente in crisi la loro situazione. Sì, perché penso che la prima causa per cui ci si rivolge a un chiromante sono gli amori disperati o gli amori sospettati o gli amori sospettosi, la seconda poi sono naturalmente i problemi nel campo del lavoro. Pasquale, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletti. Sì, io volevo intervenire sul tema. Secondo me, come ha detto lei prima, dal dato che 13 milioni di italiani vanno dai cartomanti... Sono tanti, Sono tantissimi. Secondo me ciò è dovuto da l'oscurantismo pressoché perpetrato dalla Chiesa Cattolica. E mo che c'entra la Chiesa? Adesso ha tanti torti, ma in questo caso che c'entra? La Chiesa, anzi, li combatte io fortemente. Io ho mio suocero che lui è un fervente cattolico, lui ha fatto il sensitivo per 20 anni, adesso non pratica più. E, diciamo, ho tratto questa dicotomia da comunque sempre un'egregora su cui il popolo si deve appoggiare per risolvere le questioni vitali, come lei diceva, l'amore, il fidanzamento, non va bene, la salute. Vabbè, lui è un santone di area confessionale, come quelli che vanno lì, che fanno piangere le statue, che ce ne sono tanti, diciamo, nel campo dell'espressione libera della fede c'è anche un sacco di cialtroni e truffatori. Ma li creiamo noi, gli diamo noi adito di prendere in mano poi le questioni familiari, come poi si risolvono negativamente. Adesso le do qualche nome. Dunque, guaritori della psiche sono quelli a cui uno va invece di andare da un neuropsichiatra, 200-500 euro in conto, ma vi conviene andare da uno psichiatra, ne prende 80. Maghi, tolgono malefici, invidia con talismani dai 25 ai 1250 euro. Spiritisti, qui sono i peggiori in assoluto, perché giocano sul fatto che una persona ha nostalgia, non ha elaborato bene un lutto, vanno lì, dico ti faccio parlare con l'anima del marito trapassato, gli dicono quello che vogliono. Naturalmente il marito trapassato avrà dei buoni uffici, perché lo spiritista abbia dei 1500 euro in più a seduta. Ma se avete soldi per andare a fare tutta la spiritista, ma datemeli a me, vi chiacchiero 10 minuti, veramente cambio mestiere. Maestro Reiki, insegnamento dell'arte e la guarigione a distanza, sì, perché uno fa manco la fatica di andare a casa del paziente, 2500 euro, lo voglio fare io da oggi dirò che ascoltarmi alla radio ci si guarisce a distanza, fate un bonifico 2500 euro, il professor Rocchetti e il professor Chiappini saranno i miei collaboratori, faremo una terapia a distanza. Qual è la differenza? Chiaramente sto dicendo una cialtronata, ma perché non è cialtrone quello che chiamate per farvi la guarigione a distanza e date 2500 euro? Daniele. Sì, buongiorno Nicoletti. Eccomi. Intanto complimenti. Ecco, volevo testimoniare anch'io sul fatto dei manti, numerologhi, eccetera. Ho avuto anch'io un'esperienza, e come tutti i settori ci sono i ciabattani, sono i imbroglioni, sono quelli che sfruttano... Ma certo, sono ciarlatani, non ci piove, sono pronto a prendermi tutte le responsabilità perché uno mi dimostri una sorta di evidenza scientifica sul fatto che il guaritore a distanza o lo spiritista mi dia delle prove concrete dell'esistenza di un'anima di un trapassato. Devo dire una cosa a favore, a me mi è successa una cosa simile, dopo vari consulti, cartomanti, eccetera. Quindi lei ci è andato, ha prestato il fianco. Prima di tutto, quelli onesti e seri non chiedono cifre astronomiche. Sì, onesto, che mi spiega fra uno spiritista onesto e uno disonesto qual è la differenza? La differenza è la quantità, perché se uno ti chiede cifre, chiede meno soldi, è meno cialtrone, è meno infame, ecco, non è che è onesto. Io volevo dire, prima di tutto, sono uno dei primi scettici, non credevo in questo in assoluto. Però devo dire a favore, come ha detto lei, che loro ragionano sulla psicologia facendo delle domande sottili per capire la situazione della persona. A me mi è successo con una numerologa bravissima che senza fare domande significa che non ha capito niente da me, ha chiesto solo la data di nascita e mi ha detto vite, morte, miracoli della mia vita. Io dico, ma questa cosa... E come ha fatto? Lei dice che è frutto di studi, io sono rimasto... Secondo lei questa signora aveva la facoltà di poter sapere tutta la sua vita dalla sua data di nascita? Sì, lei mi ha detto addirittura che io a 10 anni ho rotto una gamba. E io come detto, ma cazzo fa sapere questo signore, scusa. No, si figura. Sapere, io sono rimasto stuccato perché ho detto... E quanto le ha portato via per questa fantastica... Una stupidata, 20 euro. No? Ah, 20 euro, per sì. Sapere... Chissà se a me uno che mi dicesse che mi sono fatto il menisco 3 anni fa, non so quant'è, meriterebbe 20 euro. Non so, non è una notizia che mi cambia la vita a me se non mi dice questo. Comunque andiamo avanti. E se gli dava una data sbagliata, ha provato a dargli una data di nascita sbagliata? Sì, ho provato a dargli una data sbagliata e ovviamente lei dà i risultati in base alla data. E quindi lei dice... Che si chiama Arturo e poi non si chiama Arturo, lei non è che può saperlo. E quindi parla di una vita parallela, di un altro Arturo che non esiste, potrebbe avere una sua base. Se è una data sbagliata è ovvio che anche lei dice in base alla data, non è che dice non conosce la persona. Vabbè, però, sentiamo Matteo. Matteo, buongiorno. Buongiorno, sono Matteo di Arezzo. Salve Nicoletti. Chiamano solo uomini, le donne si vergognano, io ho solo amiche che vanno da cartomanti, onestamente uomini no, però in te non lo vogliono dire questa mattina. Prego Matteo. Ah, volevo solo dire, io non credo ovviamente a queste cose, quello che però mi fa male è sapere che il dato di 13 milioni non mi stupisce, considerando che siamo in un paese dove nella TV di Stato, che dovrebbe fare servizio pubblico, è pieno di gente che fa l'oroscopo. Ah, ragione, hai perfettamente ragione, lo trovo infame questo, sì, è vero. E parlo per, ecco, dopo essere laureato... Ma non siamo uno stato laico, è questo il problema, capito? Sì. La maggior parte dei maghi, dei cartomanti, dei chiromanti, devono la loro fortuna a passaggi televisivi. Vieni, ci fai oggi l'oroscopo, che succede? Questo dice, oggi succede. Ma potrei farlo anch'io, potrebbe farlo lei. Oggi, con internet, uno va, cerca, scopizza, ci vuole un secondo. Sì, però penso che sia quasi un uso criminale, usare un termine. No, criminale è brutto, entriamo nel campo della truffa, lo fanno le persone diciamo in piena consapevolezza, però ci si approfitta della buona fede altrui. Poi se viene sdoganato, infatti, dagli organi di informazione ufficiali, se la TV di servizio pubblico fa vedere anche il cartomante, il chiromante, l'astrologo che vi dice cosa vi accadrà domani, naturalmente la persona ingenua, l'abbonato in prima fila, che è una persona che ha la licenza elementare, deve naturalmente pensare che allora è vero, allora qualcosa c'è, che è quello che dicono tutti. Melog, cronache meridiane. All'ultimo posto, il 12esimo, ai ai ai, scivola lo scorpione. Che cosa è successo allo scorpione? Allora, cari scorpione, considerando sempre che questa è una primavera importante, poi vi ho detto sempre c'è la settimana sì e la settimana no, diciamo che questa è una settimana, quella in arrivo, secondo me, abbastanza ferma. Vi ricordo, come al solito, di non credere ma di verificare, di mantenere un distacco critico. L'astrologia non è una scienza, però diciamo funziona, almeno io so che mi seguite in tanti, e comunque è uno spunto per divagare, discutere di tante cose. Dovreste notare, soprattutto lunedì e martedì, ma anche oggi, una situazione, non dico di fermo, ma quasi, nel senso che per quanto riguarda le questioni di lavoro, le questioni di carattere non pratico... Non dico di fermo, ma quasi, si muove un pochino, ma non troppo. La cosa è attendibile, però non dovete crederci. Statemi a ascoltare, però non mi date ascolto. Cioè, è chiaro, ma questo è il vecchio sistema, tutte le sibille hanno sempre ragionato così, ti danno una risposta talmente ambigua che alla fine solo la fabulazione conta. Questo era il Paolo Fox, un grande personaggio, ma nella vita molte persone che hanno fatto della parola la loro fonte di sostentamento arrivano, ahimè, a un certo punto nel valutare la loro esistenza, dico, ma perché non ho fatto questo mestiere? Caro Nicoletti, una mia conoscente ha vivacchiato da sempre facendo marchette, superata l'età ha iniziato a leggere le carte, fatica meno e guadagna di più. Non ho dubbi, sicuramente, anche perché potrei farvi una lista, ma non ve la faccio per rispetto della vita altrui, di personaggi noti e famosi, di uomini della politica, di specchiati libri, leader che non si muovono se non hanno la cartomante vicino, la chiromante vicino. Ho visto colleghi miei in affanno perché dovevano chiedere alla loro maestra di vita, al loro maestro di vita esattamente quale decisione prendere. E naturalmente il maestro di vita fatica poco e guadagna molto. Ho detto qualcosa di azzardato e discriminatorio parlando di uomini e donne rispetto a questa fiducia nell'occulto. I dati dell'osservatorio antiplagio che pubblica Repubblica dicono che più o meno sono a metà, 51% donne, 49% uomini. L'identikit dà una prevalenza nella fascia 31-55 anni, il 39%. Infatti mezza età, quando uno la vita se l'è giocata, infatti calano, 56-80 anni è il 33%. Sono quelli che vogliono di più sapere, sono giocati gran parte le loro carte, non vogliono sbagliare. Poi sono persone che molte volte soffrono di stati d'ansia, di stati di depressione, di incertezze, problemi familiari, amori disperati, lavori perduti, capito? Chiunque gli dà un barlume di certezza, ci si attaccano come se fosse l'unico appiglio possibile. Giorgio, buongiorno. Buongiorno. Il suo punto di vista mi sembra molto intelligente. Sì, guardi, io lavoro da anni nel settore di internet e posso dire che ormai gran parte delle nostre vite è online, non solo quello che noi diciamo sui social network, su Facebook piuttosto che Twitter eccetera, ma anche quello che i nostri amici dicono di noi. E c'è uno spot molto bello che penso che sia stato fatto in Germania o in Danimarca, dove si vede appunto un cartomante che parla con delle persone e gli dice delle cose sembra impossibile che lui le sappia, e a un certo punto lo spot finisce che una tenda cade e dietro la tenda c'è una persona con un computer che sta cercando sulle loro vite, sulle vite appunto di quelli che vanno dal cartomante, le comunica al cartomante tramite un piccolo microfono e tutti quanti ma è chiaro che la persona è impressionante. Il livello ormai, noi non ci rendiamo conto, ma il livello di traccia che noi lasciamo su internet è assolutamente impressionante. Diciamo che l'ombra digitale che ci lasciamo dietro le spalle dà di noi delle informazioni talmente profonde e sottili che il cartomante fa presto a sapere mettere quattro dati in croce, perlomeno vede dove abbiamo passato le vacanze, le persone che ci contattano, poi comincia a buttare delle piccole esche a cui noi attacchiamo e poi diciamo tutto il resto. Guardate che molte volte ci si illude di non dare informazioni di sé, anche semplicemente come si è vestiti, l'atteggiamento, il modo di parlare. Basta soltanto un appiglio, basta soltanto una frase alla quale poi si risale la catena dell'informazione. Rino, buongiorno. Sì, buongiorno. Sono Rino, chiamo dalla provincia di Teramo. Io infatti ho avuto un'esperienza proprio come l'ascoltatore precedente. Io sono un contro, cioè proprio per la scienza e non assolutamente per queste fantocchie che non esistono proprio. Sono stato molti anni fa, circa 25 anni fa, tesserato in un gruppo che aveva ideato Piero Angela prima ancora di Quark. Ah sì, certo, esattamente, che svelava queste cose. E cosa avete fatto? Allora, a forza di parlare con un amico, dico, guarda, ma dove vai questo qua? Però, voglio dire, stava male, per cui aveva bisogno di parlare con qualcuno, adesso poverino non c'è più, c'era bisogno di parlare con qualcuno, gli avevano messo in mente questa cosa, detto, guarda, gli dicevo, si chiamava Piero, dico, guarda Piero, che sono tutte stupidaggini. Andiamo al punto, quindi andata dal mago. Andiamo da questa signora alle 4 di mattina. Alle 4 di mattina, perché sì, alle 4 di mattina, non esagero, c'erano 37 persone. E beh, allora migliore, sono tutti rincoglioniti, può dire quello che vuole. Cioè, è una cosa impressionante. Il nostro turno alle 11:30 di mattina, praticamente dopo. Che va fatto la signora? La signora, allora, nel frattempo si stava in questo grosso capannone. Cioè, tu non pensa agli anni buttati via a studiare, darsi da fare, a lavorare, esatto, notti alzate. Di Civitanova Marche, questo capannone grandissimo, ci mettiamo di dentro ad aspettare. Che va detto? Arriva al punto, se no non finiamo. Sì, arriviamo al punto, si apre la porta, entriamo e chiama questo mio amico che già aveva preso appuntamento, entriamo dentro e mi fa, lei può rimanere fuori. Ecco, scusi, perché avrei bisogno? No, dice, guardi, lei è negativo, può rimanere fuori perché se lei non crede a queste cose, cosa è venuto a fare? Praticamente mi giro subito, immediatamente nel capannone, cioè come un'aria un po' così sorpresa, e c'erano due signori, 55, che stavano ridendo, perché praticamente erano quelli che riportavano alla signora tutto ciò che succedeva all'interno del capannone. Che si diceva, tutto quello che si diceva, tutto quello che io cercavo di dire al mio amico. C'erano delle spie che intanto capivano l'atteggiamento. Sì, quando è come il gioco delle tre carte. Carte dei napoletani che stanno lì all'area di servizio. Stessa identica cosa. Viva la faccia di queste signore che sono così brave a capire le debolezze umane. Isabella. Sì, buongiorno. Buongiorno. Io paradossalmente sto dalla parte di tutti questa gente, si fa per dire, che fa carte, numeri, eccetera. Io non li frequento, però io mi chiedo una cosa, al di là delle truffe, quindi quando adescano minori o uno è stato mentale particolare, se un adulto è vaccinato ci va e li paga, è giusto che spenda i soldi così, perché altrimenti gli togliamo anche il voto. Ma certo, chi ha detto niente? Ho detto, sono felice, sottolineo il fatto che mi fa grande invidia che tanti cialtroni sopravvivano leggendo il futuro agli altri, solo questo, certo che può farlo. Alla prossima!